Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Napoli parla Mastella, non ho mai preso una lira, io e la mia famiglia abbiamo le mani pulite. Fisco, Berlusconi promette tagli, questo governo eliminerà l'IRAP. Spari a due mercantili italiani, abbordaggio sventato. Rischi di ripresa della guerra di mafia a Catania, oggi 50 fermi. Io non ho mai preso una lira in vita mia. Così lo state sentendo, un Mastella furioso si è difeso dagli attacchi che ieri hanno riguardato la maxi inchiesta di Napoli su appalti ed assunzioni, hanno riguardato l'intera sua famiglia. È stata una conferenza stampa abbastanza movimentata, iniziata in ritardo, un Mastella che si è proprio difeso, come aveva già anticipato ieri, con i denti quasi, in maniera molto forte. Come ci conferma in diretta da Napoli Enzo Danna? Sì, buongiorno dalla sede dell'Udeur in via Melisurgo qui a Napoli, dove la conferenza stampa di Mastella sta per concludersi. Nessuna dichiarazione di guerra ai magistrati dunque da parte dell'ex ministro della giustizia, anche se dice: io e la mia famiglia subiamo attenzioni molto forti e incomprensibili, sono sereno e affronterò i giudici con determinazione. A proposito delle presunte raccomandazioni, uno degli elementi più forti al centro dell'inchiesta dei magistrati napoletani, l'ex ministro ha detto di avere segnalato persone che avevano bisogno ma di non avere mai raccomandato nessuno. Non ho mai preso una lira, lo avete appena sentito, mai intascato tangenti in vita mia, io e la mia famiglia, ha tenuto più volte a ribadirlo, siamo persone per bene, sentiamo. Ho sempre detto che mi sarei difeso nei processi e lo farò, perché ho la fronte alta, l'orgoglio io e la mia famiglia di essere persone per bene. Io e la mia famiglia, anche a lei che ascolta là, siamo persone per bene e abbiamo le mani pulite, pulitissime, mai una lira in tasca rispetto a fatti che sono accaduti in 32 anni di vita politica, parlamentare, sociale, economica e per quanto mi ha riguardato. E in questi due anni, negli ultimi tempi, in verità, da quando ho fatto il ministro della giustizia, sono stato radiografato io e tutta la mia famiglia. Ecco, abbiamo sentito uno dei passaggi chiave della conferenza stampa dell'europarlamentare Mastella, il quale ha aggiunto di avere sempre lottato contro la criminalità e di non avere nessuna intenzione di lasciare la politica. Chi pensa questo, ha detto con grande convinzione, si sbaglia. E da Napoli, dalla sede dell'Udeur, ho concluso, vi restituisco la linea. Grazie ad Enzo Danna. 63 indagati dunque ieri, e quella lista di raccomandati con tanto di segnalazione accanto al nome del politico di riferimento, che fa paura, fa sicuramente discutere, quasi un nuovo sacco di Napoli come in passato. E allora ne parliamo con Mariano Maugeri, collega del Sole 24 Ore, che anche di questo scandalo, lo scandalo di ieri, aveva delineato profeticamente i contorni in un libro edito da Rizzoli che si intitola Tutti gli uomini del viceré. È citato in questo libro espressamente anche l'ex direttore dell'ARPAC, Luciano Capobianco. Noi siamo in collegamento con Mariano Maugeri. Buona giornata, Mariano. Profeticamente c'è tutto nel tuo libro. Sì, chiunque sia stato in campagna nel 2008 si è imbattuto nella vicenda dell'ARPAC, dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente. La metà dei dipendenti delle altre agenzie omologhe del Nord, Lombardia, Piemonte, con una situazione ambientale disastrosa, rifiuti tossici, rifiuti nocivi e rifiuti solidi urbani che hanno ammorbato la Campania negli ultimi tre anni. La gestione dell'ambiente nel 2005, alla seconda rielezione di Bassolino, viene appaltata agli uomini dell'Udeur. C'è uno scambio, si ripartiscono le materie, all'Udeur l'ambiente, a Montemarano, che era un uomo della Margherita, la sanità, a Rifondazione Comunista Corrado Gabriele lavoro e formazione, l'industria e il bilancio invece ai bassoliniani. E quindi si delega questa materia fondamentale per il futuro e per il presente della regione Campania agli uomini di Mastella, per l'appunto. Chi sono? Il capostipite è Antonio Fantini, che è stato presidente della Giunta regionale della Campania nel 1980 durante il terremoto dell'Irpinia e poi commissario straordinario. E al commissariato Fantini a quell'epoca chiama Luciano Capobianco, che è un suo uomo, un suo sodale. E lo stesso Fantini poi lo nominerà presidente dell'ARPAC, assessore regionale all'ambiente, e invece Luigi Nocera, altro uomo dell'Udeur, che poi nel 2008 sarà costretto alle dimissioni per un'inchiesta che lo coinvolge e l'accusa di concussione. E l'ARPAC Campania... Mariano, perdonami se ti interrompo, noi parliamo di ambiente in una città, in una regione dove tutto quello che è accaduto ce lo ricordiamo molto bene, i rifiuti per strada che hanno fatto il giro del mondo, no? Certo. E non hanno, l'ARPAC non ha mai denunciato niente, non ha mai fatto nulla? L'ARPAC non ha i mezzi per denunciare nulla, come abbiamo visto ieri, tutti i dirigenti erano occupati a spartirsi i posti, a ricattare gli elettori, perché in campagna non solo Mastella e l'Udeur, ma anche Bassolino, come dire, il potere del governatore è fondato sul ricatto continuo: o ti iscrivi al mio partito oppure non avrai mai la speranza di avere lavoro. E tornando all'ARPA, che a differenza di quello che avviene nelle altre regioni italiane, dove tutti i funzionari dell'ARPA hanno il compito di polizia giudiziaria, cioè possono indagare e chiudere qualunque discarica di rifiuti tossici nocivi che non sia a norma, in Campania, guarda caso, appunto nella regione più antropizzata e più devastata d'Europa, perché questo mi pare ormai sia riconosciuto da tutti, i funzionari dell'ARPA non hanno mai avuto questo status di polizia giudiziaria, perché per scelta di Fantini, di Nocera e di Capobianco non si voleva che entrasse l'ARPA in rotta di collisione con la Camorra e con chi ha gestito le discariche abusive nella lunga storia campana. Altro dato curioso: gran parte degli assunti dell'ARPA Campania arrivano da un paese dell'agronocerino sarnese che si chiama Sant'Egidio del Monte Albino. Chi è di Sant'Egidio del Monte Albino? L'assessore Nocera, che appunto nel 2008 ci dice... viene arrestato ai domiciliari, e poi Bassolino sostituirà finalmente nel pieno dell'emergenza Monnezza con Walter Ganapini, l'assessore reggiano che già aveva risolto il problema dei rifiuti a Milano molti anni prima. E che invece Ganapini, Mariano, perdonami se ti interrompo perché dobbiamo passare ad altri temi, Ganapini che invece fa delle denunce poi specifiche, insomma. Ganapini dice: l'ARPA Campania è una fabbrica di consulenze, si affidano delle consulenze milionarie a dei consulenti che sono totalmente incompetenti e incapaci ad affrontare il problema che la regione ha di fronte. Mariano, noi ti ringraziamo, invitiamo tutti coloro che vogliono approfondire quanto hai detto a leggere Tutti gli uomini del viceré di Mariano Maugeri, edito da Rizzoli, dove c'è tutto il quadro della situazione. Noi invece parliamo di crisi economica e dell'annuncio importante che ha fatto oggi Berlusconi sulle tasse. Ce ne parla Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, un messaggio, quello del Presidente del Consiglio sul taglio della pressione fiscale inviato all'Assemblea degli Artigiani della CNA oggi in corso qui a Roma. Berlusconi punta in particolare a ridurre il peso del fisco sulle piccole imprese, un intervento graduale, dice il Premier, a partire dall'IRAP fino alla sua soppressione. Il Presidente del Consiglio precisa che la riduzione fiscale potrà avvenire anche mediante l'elevazione della franchigia in favore delle aziende più piccole, mentre per aumentare i consumi e agevolare gli investimenti si prevede l'estensione della Tremonti Ter e un sostegno stabile alle piccole imprese che investono nell'innovazione e nella ricerca. Il dialogo con voi su questi temi sarà come sempre diretto e costante, scrive Berlusconi, perché la nostra intesa sarà sempre importante per uscire definitivamente dall'emergenza. Il Presidente del Consiglio, lo ricordiamo, in Russia per una visita privata di 3 giorni ospite di Putin. Oggi in particolare i due hanno avuto un colloquio con il Premier turco Erdogan. Tra i temi, il progetto Gazprom Eni per il gasdotto South Stream e il progetto tra Italia, Russia e Turchia per l'oleodotto che collegherà Mar Nero e Mediterraneo. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo. Il ministro Meloni ha invece parlato dall'Aquila di elezioni e delle minacce a Berlusconi su internet. In diretta Andrea Viali. Andrea. Sì, il ministro dell'Interno ha annunciato di aver dato disposizioni perché venga subito chiusa la pagina di Facebook che contiene minacce al presidente del Consiglio Berlusconi e anche perché vengano subito denunciate alla magistratura le persone che sono intervenute in questa pagina. Non credo che esista un paese al mondo dove qualcuno può scrivere su un sito "uccidiamo il premier", ha commentato Maroni, che ha parlato all'Aquila dopo un incontro con gli amministratori locali. E dall'Aquila Maroni ha fatto anche un altro annuncio, ha detto che le prossime elezioni regionali e quelle amministrative verranno accorpate e si voterà per entrambe il 28 e 29 marzo, mentre gli eventuali ballottaggi si svolgeranno l'11 e il 12 aprile. Il decreto sull'Election Day sarà presentato nei prossimi giorni dallo stesso Maroni. Per il momento è tutto. Grazie Andrea. Io sono tranquillo, tranquillissimo. Sono le uniche parole che il giudice del Tribunale Civile di Milano, Raimondo Mesiano, ha rilasciato oggi, il giorno dopo l'approvazione da parte del CSM del documento a sua tutela. Ieri c'è stata anche un'altra notizia importante, la doppia bocciatura al Parlamento europeo delle due risoluzioni presentate da centrodestra e centrosinistra sulla libertà di stampa in Italia. È giusto che se ne occupi il Parlamento europeo, vi abbiamo chiesto? Ecco la risposta. In un profluvio di sciarpe turchesi in solidarietà al giudice Mesiano, urla, cartelli esposti e anche gestacci, ieri il Parlamento europeo ha bocciato la mozione voluta dai partiti del centrosinistra sulla libertà di stampa in Italia. Una libertà minacciata, intendevano i proponenti, dalle pressioni del governo. Mozione respinta di soli 3 voti e oggi vi chiedevamo se Strasburgo si debba occupare di un tema del genere. Per il 54% di voi la risposta è sì. Tralasciamo i gestacci, su tutti il gesto dell'ombrello, autore Francesco Speroni, eurodeputato della Lega, che intendeva così esultare alla bocciatura della mozione. Diciamo anche a chi mi critica, tutto sommato, la libertà di informazione è cugina della libertà di espressione. Qua si è usato solo un dito, io ho usato tutto il braccio, ma mi sembra di essere nel solco leghista. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di pirati, sono tornati in azione in Somalia e negli Emirati Arabi, tentato assalto a 2 mercantili italiani. 2 attacchi in poche ore, le navi italiane sono tornate nel mirino dei pirati, ma in entrambi i casi gli assalti sono stati sventati. Il primo tentativo di arrembaggio alle 4.15 ora italiana, 2 barchini con 8 uomini armati a bordo hanno fatto fuoco contro la Jolly Rosso della compagnia genovese Messina, in navigazione ad oltre 400 miglia al largo di Mombasa, con un carico di container e veicoli industriali. Il comandante, un 50enne della provincia della Spezia, ha risposto con una serie di manovre che hanno costretto i pirati a ritirarsi. Lievi danni alle paratie della nave, nessuna conseguenza per i 22 membri dell'equipaggio, 13 italiani e 9 rumeni. Sempre nel corso della notte, un'altra nave della compagnia Messina, la Jolly Smeraldo, ha subito un tentativo di assalto mentre era in navigazione tra l'Arabia e gli Emirati Arabi. Il comandante ha lanciato l'allarme, in soccorso del mercantile sono intervenuti 2 elicotteri militari che hanno messo in fuga i 2 barchini con i pirati. Anche in questo caso nessun ferito tra l'equipaggio. Andrea Ferro, GR24, Sole 24 Ore, Genova. Le 13:18, ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR siamo andati subito in apertura a Napoli, dove c'è stata la conferenza stampa di Clemente Mastella dopo l'inchiesta di ieri che ha portato al divieto di dimora della moglie in tutta la regione, un'inchiesta che coinvolge l'intera famiglia Mastella. Mastella si è difeso, non ho mai preso una lira, ha detto, io e la mia famiglia abbiamo le mani pulite. Poi abbiamo parlato di fisco, perché Berlusconi ha fatto un annuncio molto importante, ha promesso tagli, questo governo ha detto eliminerà l'IRAP. E poi, come cronaca, abbiamo parlato dei nuovi attacchi dei pirati in Somalia, hanno tentato di attaccare 2 mercantili italiani, abbordaggio però per fortuna in entrambi i casi sventato. Ora, come detto, torniamo all'economia, tra pochissimo parliamo di prezzo del petrolio. Intanto vi dico che tornano a salire deficit e debito pubblico in Europa, sono dati che sono stati diffusi oggi da Eurostat. Il debito pubblico raggiunge il 69,3% del PIL nell'area euro, quanto al deficit l'ufficio di statistica europeo indica un aumento in rapporto al prodotto interno lordo al 2% del 2008 e per l'Unione dell'inflazione europea al 2,3%. Riflettori, come detto, puntati sul prezzo del petrolio, che ha poi le ripercussioni sul prezzo della benzina e che dipende in larga parte dal rapporto euro-dollaro. Ci conferma questa situazione Deborah Rosciani. Sì, Deborah. Sì, buongiorno Anna Rita. E sì, effettivamente il tema continua ad essere quello, anche se in realtà oggi è una giornata piuttosto brutta in Europa e i motivi sono diversi. Ovviamente occhi puntati sulle trimestrali che stanno arrivando e tutto sommato non sono state neanche brutte, ma probabilmente il mercato ha preso atto del fatto che le quotazioni azionarie sono cresciute tanto negli ultimi mesi e quindi oggi arriva la presa di beneficio molto più consistente di tutti quei segnali che c'erano stati negli ultimi giorni. Euro-dollaro 1,4975 il rapporto di cambio in questo momento, ma ricordiamo che ieri è stata violata al rialzo da parte dell'euro la soglia psicologicamente molto importante di 1,50. Stamattina il rapporto si è portato a 1,50 e 36. Cosa succede? Che sul dollaro c'è stata anche la pressione e un sostegno indiretto, per la verità, in questa ripresa degli ultimi minuti anche dal dato sul prodotto interno lordo cinese, che è cresciuto dell'8,9% nel terzo trimestre, dall'avvertimento delle autorità cinesi alle banche di prepararsi ad un cambio della politica monetaria. L'euro è esposto anche a un po' di pressione dei realizzi in un mercato che comunque continua ad essere molto esposto su questa valuta. D'altronde il tema è anche quello dei tassi di interesse, che continuano ad essere piuttosto bassi da una parte all'altra dell'oceano, per cui insomma tutte queste motivazioni stanno creando non poca volatilità sul mercato dei cambi, ma soprattutto una situazione del tutto sfavorevole al biglietto verde in questo periodo. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Continua il calo delle vendite al dettaglio ad agosto. Su base annua la flessione è stata del 2,9%, su base mensile è stata dello 0,1%, questo lo comunica l'Istat. Chiudiamo la pagina economica, apriamo quella di cronaca da Catania con una cinquantina di arresti oggi. C'è stata una maxi operazione antimafia. Al microfono di Letizia Carrara, il procuratore capo di Catania, Vincenzo D'Agata. L'operazione che è stata portata a termine circa due settimane fa e che ha decapitato il gruppo Santa Paola ha determinato una situazione di estrema pericolosità per l'ordine pubblico, in quanto lasciava spazi liberi e particolari possibilità di espansione al gruppo Cappello, che in questo momento è un gruppo appunto in crescita nella criminalità catanese. Parliamo di sicurezza, ma ci spostiamo al nord, dove le ronde, delle quali si è tanto parlato, non sono in realtà un successo. Chi le ha viste le ronde? A oltre due mesi dal decreto del Viminale, il bilancio delle prefetture in relazione all'iscrizione dei volontari per la sicurezza negli appositi registri piange miseria. Nessuna richiesta a Bologna, nessuna a Trento, nessuna a Firenze, dove invece da ieri sono attivi 30 assistenti al territorio, che sono però gli ex ausiliari del traffico della locale azienda trasporti, destinati per decisione del comune a una nuova funzione di monitoraggio dei problemi nei quartieri. A Milano l'unica organizzazione ad aver presentato l'apposita domanda è l'Associazione Poliziotti Italiani, un gruppo di ex agenti in congedo che già da un anno pattuglia alcune zone periferiche e dalla scorsa estate anche la metropolitana nelle ore serali. Non hanno presentato invece richiesta per iscriversi i City Angels, che tengono a tutelare il profilo solidale della loro azione di operatori di strada. Anche a Bolzano finora non è arrivata nessuna domanda, anche se Paolo Dell'Angelo, presidente dei Ranger Bolzano, ha annunciato che la sua associazione presenterà una richiesta in tal senso nei prossimi giorni. Alla prefettura di Treviso, infine, è arrivata una sola richiesta. Si riferisce al comune di Oderzo. L'ha presentata Daniele Pellicciardi, il figlio dei coniugi massacrati nel 2006 nella loro casa di Gorgo al Monticano. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Apriamo la pagina sportiva adesso con il calcio, il successo prestigioso del Milan in casa del Real Madrid. In studio con me c'è Dario Ceccarelli. Dario, quanto vale questa vittoria così importante? Ma vale tantissimo in termini di morale, di prestigio, di finalmente dimostrare una bandiera che sventola, perché il Milan veniva da così un autunno piuttosto deludente in campionato, sappiamo come va, per cui andare nella tana del lupo, il Real Madrid Madrid, era così l'ultima prova d'appello. In realtà il Milan ha fatto la cosa che nessuno si aspettava, ha vinto nella Tana del Lupo in un modo un po' rocambolesco, perché se il Milan non è eccelso in questo periodo, neanche il Real Madrid non è che brilli. Infatti ha la papera di Dida, che sulla quale ormai si riderà per i prossimi secoli, è subentrata anche le papere di Casillas, il portiere Real Madrid, e soprattutto la lentezza del Real Madrid, che non ha saputo colpire quando era il momento di colpire. Il Milan è stato bravo con i suoi gioielli, quindi Pato, Ronaldinho e Seedorf eccetera, a colpire quando era il momento giusto e approfittare delle lentezze del Real Madrid. Quindi una buona ripartenza per una squadra che finora aveva invece deluso. Ecco, e quindi in campionato l'umore migliorerà. Sì, l'umore migliorerà di sicuro. Certo che il Milan è strano, ecco, come per dire, ha una vocazione europea e uno scartamento ridotto in campionato. Per cui è più facile che giochi bene con squadre blasonate come il Real Madrid, che gli danno la possibilità di giocare spazi più larghi, che con magari con l'Atalanta o col Siena. E quindi non si illudano troppo i tifosi del Milan, perché certo questo dà morale, dà prestigio e soprattutto dà forza a Leonardo, l'allenatore un po' scricchiolante che esordiente sulla panchina del Milan, che comunque ha portato a casa un'impresa mai riuscita nella storia del Milan. Grazie a Dario Ceccarelli. Stasera vi ricordo ci sono 3 italiane impegnate nel terzo turno di Europa League. La Lazio ospita gli spagnoli del Villarreal, mentre Roma e Genoa sono in trasferta rispettivamente a Londra col Fulham e da Lille. Anche nel basket sono iniziate le coppe europee. In Eurolega debutto trionfale per Siena, che ha vinto a Zagabria. Stasera Roma e Milano ospitano Vitoria e Panathinaikos. Per la nazionale invece sono momenti difficili. Il presidente federale Meneghin ha licenziato il tecnico Carlo Recalcati. Tutto quello che Dino Meneghin non avrebbe mai voluto fare: allontanare Charlie Recalcati dalla panchina azzurra col controsenso di un nuovo contratto firmato la scorsa estate e in vigore da soli 22 giorni. Poi, anche se nessuno ve lo dirà, darla vinta a giocatori che fin qui nulla hanno dato all'azzurro. Tutto quello che Dino Meneghin non poteva più rimandare, perché quando sprofondi fino al punto più basso devi buttare tutto e cominciare da zero. Recalcati non poteva restare, e non tanto per un discorso di risultati sbagliati, sempre più giù dall'argento olimpico del 2004 a qui, quanto perché con il gruppo dei nuovi delle stelline NBA non si è mai preso bene, dall'europeo spagnolo del 2007 fino alle urla estive, negli spogliatoi delle sconfitte che ci hanno lasciato a casa dall'ultimo torneo d'Europa. Però i giocatori sono questi e non ne abbiamo altri. Con questi bisogna provare a costruire il futuro partendo dal nulla. Ora serve una scelta di lungo corso con obiettivo Londra, che non è poi così lontana. Incassato il no di D'Antoni, girano i nomi dello straniero Repesa, di un allenatore antipersonaggio come Pino Sacripanti e del nuovo Messina, Simone Pianigiani. Tutti vorrebbero veder trapiantato in azzurro il cuore vincente di Siena, ma per storia di cattivi rapporti l'operazione è molto più difficile di quanto possa sembrare. Carlo Gento, GR24, Sole 24 Ore. I motori mentre si prepara per il Gran Premio di Malesia, che domenica potrebbe regalargli il nono titolo mondiale. Valentino Rossi ha annunciato che tornerà a correre in una prova del mondiale rally. Rossi prenderà infatti parte al rally del Messico al volante di una Ford Focus, che si correrà in marzo. E parliamo di cinema per chiudere. Meryl Streep di Vampiri di New Moon, giornata piena oggi al Festival Internazionale del Film di Roma. La Streep Marco Aurelio alla carriera presenterà Giulia e Giulia ed incontrerà il pubblico all'auditorium. Altro target per l'evento New Moon, secondo capitolo della saga Twilight. Protagonisti della giornata anche fratelli Coen con i Sirius Man. Ne parleremo nel corso delle prossime edizioni. Quella delle 13 termina qui. Un grazie in regia a Pietro Lacorte. Vi lascio a Buongiorno America, il GR torna alle 14. GR 24, il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.